Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci, siamo qua, vi stavamo aspettando. Abbiamo Carmelo Lauricella in regia, alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione e come sempre il nostro sommario. Sindrome premestruale e dintorni. Bacco ed Eros, la moderazione fa la differenza. Buone, gustose e salutari. Parliamo di zuppe. Stanchezza, irritabilità, umore altalenante, ma anche mal di testa, dolore, gonfiore, insonne. Ci siamo. Siamo in piena sindrome premestruale. La parola sindrome già la dice lunga e noi ne parleremo in lungo e in largo con due specialisti. La professoressa Rossella Nappi, ginecologa, endocrinologa e sessuologa all'Università di Pavia. Professoressa, bentornata e buongiorno. Buongiorno Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. Qui in studio il dottor Domenico Vitobello, che è responsabile di ginecologia di Humanitas. Dottore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, due specialisti per aiutarci a gestire e mi piacerebbe dire anche a prevenire e risolvere quel malessere che colpisce molte donne e che si ripercuote sulla vita sociale e familiare. Quindi oggi daremo voce alle donne, ma anche ai loro compagni, fratelli, mariti, figli, colleghi di lavoro, che spesso, anche senza volerlo, pagano le conseguenze di questo disagio che, puntuale come una cambiale, torna a disturbarci ogni mese, anche se con sintomi e intensità differenti. Una volta ho fatto una ricerca in un dormitorio femminile. Alla maggior parte delle donne succede proprio nello stesso periodo. In questi momenti le donne hanno bisogno di compassione, amore e comprensione. Marcy, parliamone. Parliamo di 14 mesi fa, quando io volevo andare al cinema e tu eri troppo stanco. E quella volta che ti mettesti il maglione grigio? Io odio quel maglione. Mi sento così brutta, mi sento tutta gonfia. Ma chi lo vedi quanto è cattiva? Sai qual è la donna ideale? Olivia! Lei non le ha mai le mestruazioni. Fa freddo qui dentro! Fa caldo qui dentro! Fa caldo e freddo qui dentro! Insomma, molti di noi si saranno riconosciute, ma anche molti degli altri, dei nostri compagni, amici, fratelli, figli. Professoressa Nappi, perché proprio a me viene da chiedersi in quei giorni? Come mai per alcune donne i giorni che precedono le mestruazioni sono così difficili? Ci sono donne o età più a rischio di altri? Si pensa generalmente che poi, per fortuna, con la maturità, ecco, il problema si ridimensioni. Ma intanto... In realtà non è vero, nel senso che con il passare del tempo la sindrome premestruale generalmente è più intensa. Ciò che cambia è la consapevolezza dei sintomi che precedono la fase premestruale e quindi la donna, diciamo più adulta, impara a gestirli meglio. Ci sono effettivamente delle donne più a rischio e sono quelle che hanno un ciclo mestruale o più lungo o accompagnato anche da altri tipi di disturbi, come per esempio una vulnerabilità particolare al mal di testa o al mal di pancia. E poi naturalmente, andando avanti in età, donne che hanno avuto già qualche problema, per esempio con la depressione postpartum o disturbi del tono dell'umore o anche alterazioni endocrine, come per esempio le donne che hanno problematiche tiroidee. 824 0024, questo è il nostro numero verde sempre a vostra disposizione. Invitiamo le nostre ascoltatrici ad intervenire, ma naturalmente anche i compagni delle nostre ascoltatrici. E dottor Vitobello, con lei parleremo anche di disturbi del ciclo, che può essere ravvicinato, diradato, caratterizzato anche da perdite, perché se è vero che nella maggior parte dei casi alcune alterazioni sono da considerarsi nella norma, non possiamo però nasconderci che a volte possono essere invece il segnale di disfunzioni ormonali o di patologie dell'apparato genitale che non devono essere trascurate. Sì, diciamo che l'estremità della vita fertile della donna, cioè l'adolescenza e la premenopausa, è il momento, diciamo così, caratteristico delle alterazioni mestruali. Fin dall'adolescenza le ragazzine non hanno sicuramente subito dei cicli irregolari, spesso accompagnati da dolore, e nella fase premestruale può saltare anche qualche ciclo mestruale. Parliamo invece della parte centrale della vita fertile, cioè dai 20 ai 40-45 anni, le mestruazioni potrebbero non essere sempre così puntuali ogni 28 giorni e non per questo è un segno sicuramente di patologia, però bisogna sempre diagnosticare quelle fasi, diciamo così, pre-patologiche, anche minime, come ad esempio polipi endouterini o piccoli fibromi, che possono condizionare le alterazioni del ciclo. senza non nascondere il fatto che c'è una condizione anche fisica, l'obesità ad esempio può portare all'alterazione del ciclo mestruale. Allora, quindi, se per voi ogni mese ha dei giorni difficili e volete sapere come affrontarli, chiamateci 824 0024. Mi raccomando, approfittate di questa puntata per togliervi dubbi e chiedere consigli anche riguardo all'irregolarità del vostro ciclo o a disturbi che si presentano prima e durante le mestruazioni. I messaggi 349-238-6666. Una mela al giorno. Il vino è il più certo e senza paragone il più efficace consolatore. Dicono e suggeriscono che volendo ottenere dalle donne quei favori che si desiderano, giova prima a bere vino, ad oggetto di rendersi coraggioso, pensar poco alle conseguenze. Giacomo Leopardi, Zibaldone. Allora, Bacco, Venere ed Eros, già Leopardi descriveva una relazione piuttosto stretta, lo sappiamo anche noi, ma la scienza indaga e la scienza tante volte, molto spesso, ha proprio il compito di verificare l'evidenza e l'esperienza. Ne parliamo oggi con il professor Nicola Mondaini. Buongiorno professore. Buongiorno. Andrologo e urologo presso l'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze. Professore, il vostro viene anche chiamato ospedale del Chianti e non a caso proprio nel vostro ospedale avete condotto una ricerca molto interessante. Sì, esatto, partendo proprio da quello che diceva lei, ovvero che da sempre... Pensavo a Leopardi. Sì, sì, che da sempre l'uomo unisce il vino all'eros. Infatti la parola vino ha molti significati, uno di questi è quello che deriva dal sanscrito vena, che vuol dire amare, quindi da sempre c'è questa unione tra il vino e l'amore, e non per niente nella mitologia spesso si fa risalire ad una lacrima di Dioniso e quindi di Bacco il vino, e quindi anche in questo caso Bacco, dio dell'ebbrezza e della fertilità, questo stretto legame. Lavorando proprio in un territorio come quello del Chianti, abbiamo deciso di fare una ricerca in tal senso per andare a vedere se questa mitologia, questa presenza nell'arte, nella letteratura, come ha ricordato lei, avesse un fondamento scientifico. E per fare questo abbiamo arruolato nell'arco di 2 anni 1000 donne che sono state studiate con un questionario che si chiama Female Sexual Function Index, che è l'unico modo oggettivo ad oggi per valutare la sessualità femminile. Chiaramente con i limiti di un questionario. Certo. E da questo studio è emerso che le donne che hanno un consumo moderato, dove per moderato si intende uno al massimo 2 bicchieri di vino al giorno, hanno una sessualità complessiva migliore rispetto alle altre. Tra l'altro questo dato viene confermato anche da ricerche australiane, sbaglio? Esatto, questo dato proprio sempre quest'anno è stato confermato da un'importantissima ricerca svoltasi in Australia, dove però il target era il target maschile, e in questo caso, anche in questo caso, una modica quantità confermava un effetto positivo. Chiaramente tutti questi dati non vogliono essere un invito a chi è astemio ad iniziare a bere, anzi chi è astemio continua a rimanere astemio, perché chiaramente vi sono anche dati della letteratura che ci dicono che ci sono anche danni su altri organi. Sì. Ma sicuramente chi ha un utilizzo sbagliato delle bevande alcoliche in generale sappia che sicuramente nella moderazione ci può essere sicuramente una risposta positiva. Quindi sottolineiamo moderazione, perché sennò ecco, capita scusi. Capita un po' come si ricorda la zucca di Cenerentola, doveva rispettare la carrozza di Cenerentola doveva rispettare la mezzanotte, oltre la mezzanotte la carrozza si è trasformata in zucca, e così la moderazione, se si eccede le defiance, oltre che la salute, sono... Esatto. Se si eccede per quanto riguarda strettamente la sfera sessuale abbiamo le defiance, come diceva lei, ma chiaramente l'eccesso porta a tutti quei problemi sociali che purtroppo ogni sabato, ogni diciamo fine settimana abbiamo gli incidenti stradali. Ricordiamoci pur sempre che l'alcol è la prima causa di morte tra i giovani, quindi quando facciamo queste ricerche chiaramente noi da un punto di vista scientifico dobbiamo fare una ricerca oggettiva, però dobbiamo sempre pensare che ci sono anche dei risvolti sociali che non sta chiaramente a me analizzare, ma che però devo sempre pensare nel momento che si parla di questi argomenti. Assolutamente. Professor Mondaini, grazie. Ricordo che voi avete anche curato un libro, Eros e Vino, vero? Esatto. Edito da Giunti, dove ci sono tante informazioni utili, oltre che la storia, la mitologia. Esatto, questo libro si intitola Vino ed Eros, ed è edito dalla Giunti, è un libro che ha un fine soprattutto divulgativo, è un libro che parte da, come diceva lei, dalla storia, dall'arte, dalla cultura, per poi addentrarsi nei meccanismi della fisiologia dell'erezione da un lato e della sessualità femminile dall'altro, dando, credo, delle indicazioni molto importanti per la popolazione. Grazie professore, buona giornata. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Il vino aggiunge un sorriso all'amicizia e una scintilla all'amore. Edmondo De Amicis. Pronto soccorso. E noi torniamo ad occuparci di donne, ma torniamo ad affrontare il tema. Parliamo di sindrome premestruale. La maggior parte di noi, delle donne in età fertile, avverte proprio l'arrivo del ciclo con un insieme di sensazioni soggettive come stanchezza, gonfiore, irritabilità, nervosismo, la mancanza di concentrazione, a cui si accompagnano sintomi oggettivi: dolore al seno, brufoli, gonfiore addominale, mal di testa. Allora oggi con i nostri esperti cercheremo di capire le cause e anche suggerirvi rimedi, ma come anticipato parleremo anche di irregolarità del ciclo, di mestruazioni abbondanti e dolorose. Insomma, in questa puntata prenderemo in esame un mese intero, insieme alla professoressa Nappi e al dottor Vito Bello. E intanto abbiamo Valeria che ci chiama da Bari all'824-0024. Buongiorno Valeria, benvenuta. Ciao, buongiorno. Una semplicissima domanda. Ho 38 anni, diciamo che avevo dei sindromi premestruali ordinari, diciamo, un po' di irritabilità durante qualche settimana prima. Sì. Ma nell'ultimo anno ho notato una cosa abbastanza strana, ossia che una settimana prima del ciclo mi si abbassa le difese immunitarie e ho febbre. Sì. Cioè mi può venire il mal di gola, ho febbre, cioè l'otite, cioè una qualsiasi malattia. Professoressa Nappi, lei vede una relazione? Ma è possibile, per esempio esistono delle persone che hanno un herpes ciclico prima del ciclo, esistono delle persone che hanno una fibriciattola che si ripete e questo si mette in relazione con l'equilibrio che esiste tra gli estrogeni e il progesterone. Potrebbe valere la pena però di andare a verificare che altri due ormoni non siano coinvolti, primo fra tutti diciamo gli ormoni tiroidei, che a volte regolano sia la nostra temperatura corporea, sia diciamo il nostro modo di reagire di fronte a delle sfide, le sfide che vengono poste all'organismo e che talvolta la fase premestruale purtroppo è un momento in cui la donna è più vulnerabile e quindi è meno forte nei confronti di eventuali agenti stressanti o patogeni. E poi anche la prolattina può avere un ruolo, tante la forte interazione che può esistere con il sistema immunitario. Bisogna fare degli approfondimenti. Ho 39 anni, ci scrive Barbara, due bambini piccoli, due settimane prima del ciclo inizio a essere irritabile, nervosa, eccetera. Questi disturbi sono peggiorati dopo i parti. È possibile, dottor Vito Bello? Invece a noi dicevano, quando si era ragazze, si avevano questo sindrome premestruale, mal di pancia, le mamme e le nonne dicevano, poi quando sarai grande diventerai mamma, spariranno. Ma già la professoressa Nappi ci ha detto che non è vero, ma evidentemente anche Barbara lo tocca con mano. Sì, sicuramente non bisogna considerare che il ciclo della donna e quindi anche la sindrome premestruale sia uguale in tutti i vent'anni della vita di una donna. Come diceva giustamente anche la professoressa, dopo le gravidanze ci sono anche dei cofattori, cioè dei fattori in più che possono andare a influenzare. Non dimentichiamo che una donna quindi ha anche i figli a cui badare, quindi mille altri problemi che si fa carico. Certo. Quindi può peggiorare un po' la sindrome premestruale. Lei si vede che frequenta molte donne, sa? Sì, c'è una marcia in più. Un po' come il film famosissimo Quello che le donne non dicono, il ginecologo spesso davanti alla paziente cerca sempre di capire quali sono i suoi disturbi e gli occhi della paziente quando si rivolgono a me dicono tanto un uomo non capisce, però effettivamente io ho acquisito questo sesto senso e cerco sempre di far capire che effettivamente anche se non proviamo sulla nostra pelle questo disturbo, cerchiamo in ogni modo comunque sempre di capire qual è il sintomo da curare. Non tutti i sintomi della sindrome premestruale vanno curati, solo quelli che danno fastidio alla donna. Allora, ho detto in apertura che avremmo coinvolto anche l'altra metà del cielo e voglio leggervi un sms di Alberto che ci scrive. Nato in una famiglia di 5 sorelle, unico maschio, sono alla seconda convivenza e sono diventato un esperto nella gestione della sindrome premestruale. Mi chiedo, cosa abbiamo fatto noi uomini di male per non meritarcela. Sarà dolorosa, ma ha i suoi vantaggi. Noi dobbiamo sopportare, meglio se in silenzio e con il sorriso. Allora, dottor Vito Bello, io le chiedo di togliersi il camice e di raccontarci il suo punto di vista di uomo. Lei, insomma, facendo il ginecologo ha una sensibilità sicuramente maggiore, ma fuori dall'ospedale le subisce anche lei? Certo, sono anche marito e quindi ho anche una moglie, di conseguenza questo sicuramente mi fa capire anche quello che vivono gli uomini che non sono medici, non sono ginecologi. Tuttavia è un periodo molto particolare, bisogna cercare di veicolare la propria compagna, la propria moglie, insomma, ad affrontare questo disturbo facendo capire che lo si comprende, che non lo si capisce, perché in fin dei conti poi non bisogna prendersi in giro, però che lo si comprende, magari aiutandola ad avvicinarsi magari a uno specialista che può magari consigliargli quali sono alcune terapie, anche non necessariamente farmacologiche, che possono aiutare a affrontare questo periodo. Professoressa Nappi, quali sono le cose che un uomo non deve dire ad una donna quando la vede irritabile, nervosa, insomma, che sta gestendo a fatica la sindrome premestruale? Più quello che non deve dire è quello che deve dire, deve essere comprensivo, non deve dire ah ecco hai le mestruazioni. Brava, ecco, sei nervosa ancora di più. Brava, la frase classica è sei nervosa, ti devono arrivare le mestruazioni, esatto, che uno dice mi ammazzo. Che per le donne è veramente molto molto fastidiosa, deve essere comprensivo, deve cercare di aiutarla di più, di supportarla di più, fare qualche piccolo invece commento dolce e positivo per cercare di stemperare questo cortocircuito che si crea a volte a livello del sistema nervoso centrale, che poi è quello che crea più fastidio nella relazione di coppia, perché i sintomi fisici una donna è anche più abituata a sopportarli in generale, mentre quelli psicologici la destabilizzano un po'. Ecco, perché si verifica questo cortocircuito a cui lei faceva riferimento, professoressa Nappi? Ma sai Nicoletta, la sindrome premestruale è stata la sfida più grande per tutti i ricercatori che da sempre si occupano di ormoni e di mestruazioni. In realtà non abbiamo una visione univoca proprio perché la parola stessa, come dicevi bene tu, sindrome, ci dice che ci sono più sintomi e che ci possono essere più cause. E come diceva il mio collega giustamente, nella vita non è mai uguale, per cui ci sono momenti in cui i sintomi fisici predominano, momenti in cui predominano gli psicologici e così via. Diciamo che il cortocircuito è in realtà una vulnerabilità maggiore di quell'individuo, di quella donna, alle sue normali variazioni cicliche degli estrogeni e del progesterone, e questo avviene sia a livello di tutto il corpo ma anche a livello del sistema nervoso, e quindi ci sono donne che sono più, come dire, un po' più allergiche ai cambiamenti dei loro ormoni, senza dimenticarci che il cervello fa ormoni di suo e quindi quando è più stressato, quando è più sotto tensione è in grado di influenzare anche l'apparato della riproduzione, e quindi si crea questo dialogo tra utero e cervello, che è quello che ci dice ah ecco le donne sono mobili, le donne hanno la sindrome della luna, sì, e così via. È sono uterine. È proprio una liaison che si crea tra ovaie, utero e cervello. Io vorrei provare a fare una sorta di sondaggio per capire quali sono i sintomi che vengono avvertiti con maggior frequenza. Allora, qual è il disturbo più invalidante per voi nei giorni che precedono il ciclo? A pagarne le spese è più l'umore o invece il dolore che caratterizza questi giorni? 800 24 0024, abbiamo tempo per andare a fare un saltino a Bologna dove ci aspetta Paola. Buongiorno Paola, benvenuta. Buongiorno a tutti voi. E una domanda, io ho 38 anni, ho avuto sempre un problema di ciclo mestruale, ho il mio primo ciclo, è iniziato a 13-14 anni, e, sempre saltato ogni due mesi, mai ogni mese, da medicina nucleare al ginecologo mi continuavano a dire, lei ha un'ovaia addormentata, e poi dallo stress, forse il lutto, che ho avuto a 16 anni e il lavoro e la vita mi ha portato a avere un ciclo una volta ogni 6 mesi, 7 mesi, un anno, e mai nessuno è riuscito a capirlo. Due anni fa mi sono fidanzata, ho una vita più regolare e il ciclo è tornato regolare e non ho fatto niente. Col fidanzato è tornato il ciclo, dottor Vito Bello, dobbiamo trovare dei fidanzati qua. Sì, indubbiamente qui c'è una causa-effetto, nel senso che sicuramente una vita normale, diciamo così, o più soddisfacente o più regolare, ha regolarizzato il ciclo, proprio perché ci sono ancora molti aspetti sconosciuti del ciclo della donna, così come per la sindrome premestruale e anche per il ciclo mestruale, che non conosciamo ancora. Probabilmente qualche meccanismo, qualche sostanza prodotta probabilmente dall'encefalo che può influire. Poi naturalmente dobbiamo sempre fare un pannello di controllo, non dobbiamo dimenticare che nulla in medicina è scontato se non va indagato, quindi un'irregolarità mestruale, come ha descritto l'ascoltatrice, prima del fidanzamento, sicuramente va indagato a livello ormonale. Ad esempio la prolattina, l'eccessiva produzione di prolattina può portare ad una amenorrea, cioè l'assenza di mestruazioni per qualche tempo. Come si misura la prolattina? Attraverso un esame del sangue, un dosaggio plasmatico. Ritardo mestruale, ma no, mi fa stare male, ma è la stessa sensazione di nervosità. Non riesco a dormire, soltanto a pensare. Ti prego, fai arrivare qualche sintomo. Una zinna di mamma, un dolore di uomo, una vita addominale, qualche brufolo quella. Ma no, i brufoli! Io rido sempre quando sento che Cozzalone, per me è magnifico. Comunque, arrivano tantissimi messaggi dai nostri ascoltatori. Sono abbastanza carini, ma direi mettono abbastanza i puntini sulle i. Ad esempio, Giuseppe da Padova ci scrive: lo so che mi prenderò i vostri strali, ma se sappiamo cosa succede e perché, cosa costa non far pesare gli altri sintomi ciclici? Il maschio non può mai avere attenuanti, non ha il ciclo e deve essere comprensivo col ciclo femminile. Vorrei pari trattamento e pari opportunità. E intanto abbiamo anche in linea con noi Roberto da Bergamo, vediamo se ci dice più o meno le stesse cose. Buongiorno Roberto. Buongiorno signora. Diamo una botta di vita. Si dissoci dai suoi colleghi maschi. No, che non mi dissocio, non è possibile. Ci hanno insegnato l'elementare a contare fino a 10. Ogni tanto, io non voglio fare un discorso maschilista. No. Lo so benissimo che ci sono delle problemi, delle problematiche, ma Dio mio, fin quando sono problemi, per carità, medici e gravi, è giusto intervento del medico, è giusto che ci sia. Ma insomma, a me pare che ogni 3x2 ci sia la scusa del ciclo mestruale. Senta, però noi abbiamo Alba che ci scrive che noi ci lamentiamo solamente 2 o 3 giorni al mese quando ci lamentiamo, mentre voi vi lamentate 365 giorni all'anno e quindi siete un po' insoddisfatti quando vi si toglie la scena. Ecco, ho riassunto questo SMS molto lungo. Roberto, meno male che siete andati alle elementari. Cosa devo dirvi? Benedette maestre. Fino a 10, Benedette maestre. Roberto, grazie. Buona giornata a lei. Allora, io ho altri messaggi che ci aiutano a puntualizzare alcuni aspetti. Carla ci scrive: ho 41 anni, soffro di sindrome premestrale da quando ero ragazza. Il sintomo più fastidioso è il gonfiore, tanto che nell'armadio alcuni capi proprio per quei giorni. Eppure sto molto attenta alla dieta. Il dolore invece lo tengo sotto controllo con un antinfiammatorio. Dottor Vito Bello. Sì, l'antinfiammatorio può essere utile. Generalmente va assunto almeno 24-48 ore prima dell'inizio della sintomatologia perché abbia buon effetto. Gli antinfiammatori contenenti gli antiprostaglandinici sono sicuramente quelli che hanno un maggiore effetto positivo. Per quanto riguarda il gonfiore bisogna stare attenti all'automedicazione. Qualche donna, ad esempio, per eliminare i liquidi assume diuretici. Ecco, questo deve essere assunto sotto controllo medico perché il diuretico è un farmaco che si usa per l'ipertensione arteriosa, quindi può essere pericoloso se autogestito. Alice ci chiama da Venezia. Alice, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io ho seguito con molto interesse la vostra trasmissione perché ultimamente ho avuto veramente dei problemi. Sono abbastanza tra mia ginecologa. Sì. Sono sempre stata, ho 39 anni, sempre stata svizzera nelle mestruazioni, nel ciclo. Ultimamente, in seguito ad un grande trauma, si è sballato tutto quest'anno. Io ad esempio ho sempre un anticipo di 2, 3, 10 giorni prima. Sì. Perdite di mucosa durante il peso di cervice, durante comunque anche preventivamente. Sì. E il sintomo più fastidioso della sindrome premestuale non è tanto il mal di testa o il gonfiore, quello è sopportabile, ma quanto un po' di depressione, sì, quindi crisi di pianto e proprio uno sfogo di brufoli attorno alla bocca, che poi scompaiono. Certo. E ultimamente il ciclo è durato molto di più del previsto, anziché durare 3-4 giorni, è durato una settimana. Alice, mi ha detto 39 anni, vero? Sì, l'unica cosa che mi ha detto la ginecologa è quello di... ho fatto già i dosaggi ormonali, è tutto a posto, tranne la prolattina, ma è leggerissima. Leggerissima sopra la norma, e mi ha detto di, per il momento, di usare un farmaco che si chiama il Lutenil, se non sbaglio, sì, dal 16° al 25° giorno, che dovrebbe allungare un po' il ciclo e migliorare un po' la situazione anche magari del brufolo, della depressione leggermente. Alice, la affidiamo alla professoressa Nappi, che è già una bella garanzia. Professoressa Nappi! Allora Nicoletta, dunque, il farmaco che è stato prescritto in realtà è un equivalente del progesterone, perché è possibile che in questo momento di stress la nostra ascoltatrice non stia ovulando in modo corretto, e dunque il progesterone può avere un'indicazione molto buona. Certo è che questi livelli borderline cosiddetti di prolattina e il fatto che si formino i brufoli mi dice che forse c'è anche qualche altro ormone dello stress che è andato fuori squadra, per esempio il cortisolo. Noi sappiamo che esiste una forte interferenza tra gli estrogeni e i sistemi dello stress e viceversa, quindi magari se nell'arco di 2-3 mesi le cose non migliorano sul versante pelle può valere la pena approfondire anche questo aspetto. Professoressa Nappi, sappiamo che insomma, noi donne cerchiamo di autocurarci, prima magari non abbiamo consuetudine con il ginecologo, andiamo ai controlli regolari, però quando siamo lì magari ci dimentichiamo, soprattutto se i disturbi sono fastidiosi ma non molto forti. Secondo lei quali sono i rischi che noi possiamo correre autocurandoci e quindi autosomministrandoci dei farmaci, vuoi per calmare un po' il dolore, questo gonfiore? I rischi sono quelli di sottovalutare, come diceva anche il collega, qualche patologia che ci sta sotto, diciamo, sì, così. È ovvio che la sindrome premestruale sembra essere più legata a fattori che noi definiamo funzionali, cioè di equilibrio. Questo è il motivo per cui tanti integratori sono stati anche messi in commercio per la sindrome premestruale, vuoi dalla vitamina B6, sali di magnesio, una serie di erbe come per esempio l'agnocasto, proprio perché, hai capito, molto spesso sono sintomi che non hanno, tra virgolette, una dignità medica tale, certo, da dover prendere un farmaco vero e proprio. Quindi un po' di sana integrazione anche alimentare, pensa a mangiare banane, mangiare per esempio la frutta secca, che contengono moltissimi precursori buoni che aiutano i neurotrasmettitori a funzionare meglio, soprattutto la serotonina, che è il neurotrasmettitore del buon umore e del cattivo umore, viceversa. Andiamo a Barbara, ci chiama da Milano. Buongiorno Barbara. Barbara? No. Mi sentite? Sì, noi la sentiamo, e c'è anche un piccinino che è infastidito. In questo momento ho deciso di non farvi sentire nulla. Niente, io volevo porre una domanda se voi mi sentite. Sì. Io volevo chiedere, praticamente sono sempre stata molto molto puntuale. Senta, con vogliamo, Barbara, senta, quanti anni ha questo personaggino? Questa personaggina ha 1 anno e mezzo, è bravissima, al di là di quello che ma sembra. Ma guardi che siamo tutti abbastanza, io anche sono una mamma e so che loro hanno delle antennine. Io la richiamo tra poco, Barbara, e così vediamo se la principessa sta con noi e magari non piange. Barbara, tra poco, e voglio salutare il dottor Marco Temporin. Buongiorno, dottor Temporin. Buongiorno Nicoletta. Già la professoressa Nappi ha anticipato che alcune integrazioni possono essere utili. Abbiamo parlato di magnesio, abbiamo parlato anche di agnocasto. Ma altri suggerimenti che arrivano dalla fitoterapia? Sì, sono perfettamente d'accordo con la professoressa. Esistono in fitoterapia anche altri rimedi che possono, assieme all'agnocasto, favorire e soprattutto aiutare le signore che hanno questa problematica di tipo funzionale, chiamata appunto sindrome premestruale, ma anche possono essere utili anche per quei fastidiosi dolori durante il ciclo mestruale. E in fitoterapia io cito ad esempio la calendula officinalis, che è della, sì, famiglia delle composite, la quale è una pianta che ha dei bellissimi fiori, il cui olio è anche utilizzato anche a livello cutaneo perché ha un effetto lenitivo, antinfiammatorio. Ecco, la calendula è utilissima nella dismenorrea e anche nella sindrome premestruale perché ha un effetto rilassante nella muscolatura uterina. Di conseguenza va ad aiutare nel momento del bisogno per questo tipo di problema. Associando poi alla calendula, per esempio, la salvia officinalis della famiglia delle labiate, la quale è una pianta ricchissima di estrogeni vegetali, i cosiddetti fitoestrogeni, la quale oltre ad avere un'azione regolatrice nel flusso mestruale grazie a questa presenza estrogenica, ha anche un effetto decongestionante a livello pelvico. Quindi magnifico. Una cura dolce. Una cura dolce. Mi trovo altrettanto d'accordo anche nell'integrazione, come diceva la professoressa, attenzione ad alcuni alimenti, per esempio per chi soffre di sindrome premestruale, l'eccesso di caffè, gli alcolici, lo stesso eccesso di teina ovviamente ha un effetto irritante per cui tende a peggiorare la situazione, invece cibi ricchi in magnesio come anche i cereali integrali ma anche la frutta, la verdura possono essere d'aiuto. Io molto spesso consiglio anche alle pazienti di utilizzare per esempio dei centrifugati di verdura, di carote, mele assieme, perché queste contengono dei preziosi sali minerali, tra cui il magnesio, che aiuta molto nella regolazione di queste problematiche. Siamo tornati insieme, sono avvocato, in studio due segretarie e quattro collaboratrici. Potrei stilare un calendario dei cicli con una tolleranza minima di errore e non tutte ce l'hanno regolare. Cambia anche il modo con cui sbattono il telefono quando terminano una conversazione. Povero telefono e povero me, ci scrive questo avvocato disperato, che secondo me invece è fortunato a lavorare con tante donne. Barbara, buongiorno, siamo fortunate anche noi, non piange più la nostra principessa. Ha smesso immediatamente per fortuna. Magnifico, allora provo a riporgervi la domanda che era: io ho 37 anni, ho sempre avuto un ciclo mestruale regolarissimo direi, e da dopo la gravidanza, tra l'altro con una sindrome premestruale molto netta, quindi un rigonfiamento del seno molto, anche molto dolente, quindi da dopo la gravidanza tutto ciò è praticamente sparito, nel senso io ormai 10 mesi che ho di nuovo il ciclo mestruale, però dopo l'allattamento, però non ho più sindrome, cioè quasi non mi accorgo dell'arrivo delle mestruazioni e non sono più puntuale, anzi, quindi passo i 30 giorni, 31 a volte e così via, insomma. Volevo capire se c'era una connessione con la gravidanza, qualche approfondimento da fare a livello ormonale o insomma. Certo, Barbara. Dottor Vito Bello, scenda in campo lei, cosa suggerisce a Barbara? Dopo la gravidanza, sindrome premestruale sparita, ma il ciclo si è allungato. Sì, teniamo in considerazione che la gravidanza ha un assetto ormonale completamente diverso dal fuori dalla gravidanza, quindi c'è un clima progestinico, il progesterone sicuramente attutisce un po' alcuni sintomi della sindrome premestruale, quindi questo lungo periodo, consideriamo la gravidanza di 9 mesi più l'allattamento, quindi magari 2 anni senza mestruazioni, sicuramente ha influito. Il fatto che dopo la gravidanza il ciclo si sia allungato a 31-32 giorni, se naturalmente le visite sono normali, non ci sono grossi accertamenti da fare, anche perché non è una vera e propria disfunzione mestruale, 28 giorni, 30-31, l'importante è che siano regolari, non siano flussi abbondanti, ci può stare. Professoressa Nappi, prima di salutarla, un'indicazione, un consiglio per chiudere questo nostro capitolo? L'importante è conoscersi, secondo me, e man mano che noi riusciamo ad acquisire consapevolezza di quali sono i nostri punti deboli, se più l'ansia, se più la depressione, se più la voglia di dolci e così via, riusciamo anche con l'autoosservazione a ridurre sicuramente del 20-30% l'intensità dei sintomi. Poi è chiaro che dobbiamo mettere in atto quelle strategie che ci fanno sentire un po' meglio in quel momento, per esempio fare anche più attività fisica, cercare di ritagliarsi degli spazi per se stessi, cioè non andarsi proprio a sovraccaricare in quei giorni in cui il nostro corpo e la nostra mente tutto sommato ci dicono di rallentare un po'. Grazie professoressa Nappi per essere stata con noi, buona giornata. Grazie Nicoletta, saluti a tutti. Un abbraccio. Buon lavoro. Ciao, saluti anche al collega. E allora invece noi andiamo a salutare il dottor Speciani. Dottore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, noi con lei ci trasferiamo in cucina perché parliamo di zuppe. Questa è la loro stagione e abbiamo visto, abbiamo già toccato in parte con lei questo tema e abbiamo capito che oltre a essere buone possono anche farci bene. Beh, poi oggi abbiamo parlato del mondo femminile, quindi direi che l'uso della zuppa, ad esempio, di certi tipi di zuppe è sicuramente indicato. E mi viene in mente che la cosa più semplice è proprio di usare una base, che sono spesso queste, ad esempio, anche senza dover sempre usare delle zuppe da rifare, ripreparare con la fatica. Il mondo femminile spesso fa fatica. Ci allevi, bravo. Esistono per fortuna alcuni surgelati o alcune preparazioni. Devo dire, bisogna poi avere, magari ne parliamo alla fine di questo ciclo di trasmissioni, sì, di quelle che possono essere utilizzabili o meno, però anche ad esempio le preparazioni a base che creano una base per un minestrone, no? Allora, è indispensabile non eccedere col sale, quindi quando si crea un minestrone per il femminile, per regolare sia la sindrome premestruale che la parte ormonale successiva, è importante non usare il dado. Il dado ha un'azione di trattenimento di liquidi pazzesca, quindi se una persona è in una fase premestruale accentuata, ecco che l'uso della minestra, che apparentemente è mi faccio una minestrina così almeno mi tengo bene, no? In realtà è un darsi una martellata su un ginocchio dal punto di vista pratico, no? Per cui invece l'utilizzo di alcune erbe, di alcuni aromi che fanno parte della nostra tradizione, per cui un po' di salvia, che ha un contenuto di fitoestrogeni naturali semplici, il prezzemolo stesso in piccola quantità, quindi che diamo degli aromi che approfondiscono, il basilico, se riusciamo ad avere ognuno, io so che molte persone hanno la loro coltivazione di basilichino piuttosto, sì, che di prezzemolo nei bicchieri fuori sulla finestra, quindi si usano anche questi o si trovano oggi tranquillamente. Poi una notazione importante, quindi senza tendenzialmente grassi cotti, la cosa bella, sì, e buona è poter usare dell'olio di oliva extravergine sano da aggiungere tranquillamente alla fine di una preparazione, ma un suggerimento importante soprattutto per le parti legate alla preparazione di tipo premestruale, sì, cioè quando abbiamo una situazione di questo tipo, l'uso ad esempio al posto del pane o di qualsiasi altro tipo di situazione delle patate bollite. Patate bollite sono ricche di potassio naturali, gratificano al posto del pane ma non hanno dentro sale, perché il problema severo è proprio quello di poter avere una situazione in cui ci sia un calo, una dispersione, una riduzione del trattenimento di liquidi, quindi riducendo il trattenimento di liquidi noi abbiamo la possibilità serena di essere più sgonfi, più asciutti, più tonici, quindi questo è un suggerimento, questo è un in suggerimento più. In più, grazie. D'accordo? Grazie, noi ci sentiamo domani, dottor Speciani. Dottor Vito Bello, io voglio informare le mie ascoltatrici che lei risponde alle domande delle ascoltatrici, direi di chi scrive a Humanitas, perché è proprio lo specialista del mese. Sì, infatti questo mese abbiamo appunto affrontato il tema delle disfunzioni mestruali e delle irregolarità del ciclo, che spesso possono nascondere anche delle patologie organiche che poi sono meritevoli di terapia, ad esempio come la terapia chirurgica. Quindi il dottor Vito Bello ci saluta, ma è sempre a vostra disposizione, andate sul sito Humanitas e tempestatelo di domande. Dottor Vito Bello, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi che ci avete seguito, io vi aspetto come sempre domani dopo il GR delle 11. Buona giornata.